Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave. Ieri sera abbiamo presentato il Trio Paraguay, Paolo. Stasera presentiamo Paolo Cecchini. Buonasera Paolo. Buonasera, ciao a tutti. Hai fatto un buon viaggio, nonostante l'inondazione, non ti ha toccato fortunatamente. No, fortunatamente siamo stati fortunati nella mia zona. Io sono di San Drigo, provincia di Vicenza. Pur essendo del Vicentino, quella zona è stata salvata fortunatamente, dal diluvio, perché ho visto... è stata una cosa incredibile. Sì, ho visto delle foto veramente spaventose. Ok, ieri sera abbiamo parlato del Trio Paraguay, con una musica un po' particolare, musica legata a Paolo Conte, e stasera parliamo di cantautorato tra virgolette, però, perché leggendo nel tuo excursus tu parti al liceo, hai fatto questa roba dal noise. Sono un gruppo noise, ragazzi, tutto ben diverso da... Anche se il rock c'è sempre qua dentro, il rock è ben fatto, c'è presente, però come si fa a partire da un gruppo noise? Il noise, ragazzi, è un genere decisamente molto particolare, tra virgolette. È un genere abbastanza di nicchia. Esatto, di nicchia, in Italia soprattutto. In Italia, sì. Sono partito perché ho cominciato ad ascoltare, in realtà, più perché mi piacevano i Nirvana, che non sono gruppo noise. No, esattamente, sono grunge, non sono noise. Però poi ho cominciato a informarmi sui gruppi che ascoltava anche Kurt Cobain e che seguiva Kurt Cobain e che stimava. E allora, siccome ero un grandissimo patito di Nirvana, ho detto, provo ad ascoltare i Sonic Youth. Esatto, quelli sono al di sopra di tutti. E poi li ho ascoltati, veramente ci sono delle cose che sono tremende. Sono sorprendenti. Veramente originali, hanno portato la musica ad un livello, e anche il rumore ad un livello, cioè hanno quasi fatto un connubio tra rumore, musica ed arte, soprattutto perché sono un gruppo, veramente lo considero un gruppo di artisti e per questo li stimo molto. Possiamo dire che hanno elevato il rumore, hanno elevato il rumore. Ad arte, a forma di arte. Sì, quello sicuramente. Quindi sono dei capostipiti di un certo genere. Da voi, da buoni liceali, vi siete buttati in delle tematiche decisamente importanti e difficili, difficili, però allo stesso tempo era un genere che, secondo il nostro punto di vista, e il mio punto di vista, lasciava piuttosto liberi, libero sfogo all'improvvisazione, ricerca sonora, per cui... Artisticamente è una cosa che ti dà grande, grande soddisfazione, cioè ti trovi in un garage a provare e sei libero, quello che viene segue un po' il flusso di quello, e sei libero. Idee, quindi sei passato dal gruppo noise e poi hai cominciato anche a suonare i rudimenti del piano, mi pare, poi sei passato alla chitarra. Sì, il pianoforte l'ho suonato prima, in realtà, ho cominciato dal pianoforte che c'avevo già a casa. Avevi provato. Ho cominciato a strimpellare, poi ho studiato per 3 anni il pianoforte e ho cominciato a capire un po' la musica, le note, poi i solfeggi, che chiaramente sono la cosa noiosa, ma si poi fa, sei passato alla chitarra, sei passato a sti rudimenti noise sei passato a fare il cover di Pink Floyd, fuori di cover di un certo rispetto, ragazzi, Pink Floyd e Neil Young, mica il solito Vasco lì. Sono passato a suonare in realtà come strumentista, perché ho fatto sia chitarrista poi tastierista in un gruppo che faceva Pink Floyd, Neil Young, e lì ho cominciato ad ascoltare anche musica che non ascoltavo prima, perché questo gruppo era composto da persone più vecchie di me, avevano una decina d'anni più di me, quindi avevano dato... questa conoscenza di Pink Floyd, era il loro gruppo, uno dei loro gruppi preferiti. Ti avevano dato un po' di esperienza, però, sì. Di voglia di esplorare, di arrivare chiaramente a un tuo album da solista. Sì. Ma ci arriviamo per gradini. Sì. Innanzitutto ringraziamo il nostro staff, Michele Tosò in regia, e Roberto Badi che ha curato la messa in scena delle telecamere, e ringraziamo il nostro produttore artistico, direttore artistico, che è Alberto Pisco, che ti ha portato qua materialmente stasera. Lo ringrazio anch'io. E apriamo la finestra, la solita nostra finestra, con il primo pezzo dell'album e poi allarghiamo il discorso sull'album. Che traccia hai scelto per iniziare da disco praticamente? Il primo singolo, quindi non mi importa, la prima traccia anche dell'album Nel mio mondo, che si trova su iTunes. E della canzone che è stata scelta da me, i produttori, come primo singolo, perché è un ritornello molto accattivante, e poi un giro di chitarra molto rock, e quindi era sicuramente la canzone che rappresentava di più e che rappresenta di più il mio modo di fare musica, di fare rock. Ok, la sentiamo adesso. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. senza vivere senza te. Come vedi, non mi sorprende più ciò che fai, non ci credi. Allora io ti sorprenderò se ti dico che non mi importa più di te. Sono vivo, non mi importa neanche se mi cercherai, se mi cercherai. Come vedi, la luna non si illumina solo per te. Non ci credi, non sono più il tuo satellite. Come vedi, riesco a sorridere anche se non ci sei. Non ci credi? Allora io ti sorprenderò se ti dico che non mi importa più di te. Sono vivo, non mi importa neanche se mi cerchi. Sorge anche senza te. Non ci credi che io possa vivere senza te? Mai più mi cercherai, mai più mi abbraccerai, mai più mi sorprenderai, mai più mi incatenerai, mai più mi importerai. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Effettivamente un inizio rock. Sì. Assolutamente sì, rock. Però all'epoca, prima che tu incidessi l'album, un giornalista del giornale di Vicenza, Filippo Bordigno, sì, ha scritto una cosa molto positiva. Un talento melodico, e la melodia si sente, sì, contaminato da, da eco distorte e graffianti. Tu mi dicevi al microfono spento che era una cosa di prima dell'incisione vera e propria del disco, c'era un demo praticamente prima. Sì, sì. Che, questo giornalista aveva sentito questo demo qua e andavi via di brutto praticamente. Andavo via veramente, ecco, di brutto, sì, sì. Ero molto, molto rockettaro, molto influenzato ancora dai Sonic Youth. Infatti molte delle canzoni del primo album sono tratte da quel demo. Ed erano canzoni, il demo risale addirittura 3-4 anni prima poi di questo disco. Disco quando è stato inciso questo qua? È stato inciso dal 2007-2008 più o meno. E le canzoni risalivano anche 2-3 anni fa, qualcuna addirittura l'avevo scritta una decina d'anni prima. Cioè, la festa delle nullità, che è una delle canzoni del disco, sì, l'ho scritta quando avevo 16 anni, la musica. E quindi Gioco Forza erano influenzati da quello che ascoltavo in quel periodo, quindi Sonic Youth, i Nirvana, quindi chitarre distortissime, belle chitarre, belle chitarre, anche il feedback, mi piaceva il feedback, fare un po' di famose Stratocaster che dirompevano. Sì, sì, sicuramente. Però è interessante dire che l'apertura dell'album è fatta con l'apertura rock, assolutamente rock. E a tal proposito tu hai descritto Non mi importa con queste parole molto, sì, belle. È una canzone rock il cui testo, intriso di rabbia, parla di distacco e disinteresse verso tutte quelle persone che mi hanno deluso. Sì, sicuramente il senso è quello. L'ho scritta più che altro pensando alle persone presuntuose. Cioè, una canzone che ho scritto perché per mostrare il mio disinteresse nei confronti delle persone che si vantano troppo, che parlano troppo di sé, che si mostrano migliori di quello che sono. Quindi ho la bella macchina, sono laureato in tal materia, ho un sacco di soldi, sono migliore di te. Io dico, non mi interessa, io vado al sodo, guardo come sei in profondità come persona, se non mi interessa che tu sia ricco, se sia famoso, se hai non mi importa. Non mi importa. La sintesi, non mi importa. È una sintesi, a proposito, dal vivo, come lo fai questo pezzo? Che carica dai? Suoni da solo o hai una band che ti segue? Ho una band che mi segue. Stasera, ragazzi, qua siamo da soli, io e Paolo, col regista, con Michele dall'altra parte. Sì, sì. No, solitamente la faccio con la band e quindi cerco di farla più fedele possibile al disco, cercando di dare più energia, perché ovviamente dal vivo è quello che traspare di più, quindi bisogna cercare di dare potenza. Sì. Rock è rock a 360 gradi, chiaramente rock on. E dobbiamo ricordare anche Ronnie è nascosto dall'altra parte, praticamente è il manager, il factotum, ammetto che è anche autista, nonché fotografo. Anche guardia del corpo, che ha fatto le fotografie mentre stiamo trasmettendo. Ricordiamo, diretta rockaway.altrevista.org, ti possono vedere dappertutto adesso. In questo momento tutte le tue fan sparse dall'Alaska alla Sicilia ti possono vedere. Benissimo, le saluto caramente. Ecco, le salutiamo tutte caramente. Ok, andiamo avanti. Abbiamo parlato di questo inizio. L'idea di fare sto disco, come te si è sviluppata praticamente? Si è sviluppata pian piano. Cioè, sono partito più che altro a scrivere canzoni perché avevo questo interesse a scrivere canzoni. Ho fatto questo demo pensando che magari in futuro avrei potuto fare un disco, sarebbe stato il mio sogno. Poi chiaramente per carattere mio, che sono essendo abbastanza timido e molto riservato, è capitato che una volta fatto il demo l'ho tenuto lì, non l'ho fatto ascoltare a nessuno per mesi. Per mesi, l'hai sotto là, da una parte. Sì, proprio per timidezza, forse non ero ancora consapevole più che altro del valore delle mie canzoni. Poi a un certo punto ho deciso di farlo ascoltare, l'ho fatto ascoltare tra l'altro anche a Ronnie, che è prima città. Che è nascosto, ma dopo ritorna perché fa le fotografie, e si vede. I miei amici che hanno capito il valore delle canzoni, mi hanno stimolato e mi hanno spinto a continuare per questa strada e a cercare in tutti i modi di incidere un disco. E da lì poi è nato tutto, grazie all'aiuto di due personaggi, Matteo Franzan e Stefano Fiori. Chi sono Matteo Franzan? Sì. Sono dei produttori, cioè Matteo Franzan e Stefano Fiori sono anche produttori tra l'altro dei Lost. Dei Lost, sì, che sono un gruppo qua nostro. Sì, Vicentino. E poi anche Florio ha prodotto anche Luca Bassanese. Sì, che è venuto qua a suonare spesso e volentieri, quindi un bravo chitarrista. Sì, sicuramente sono dei produttori di grandissimo rilievo, di grandissimo spessore. E ho avuto la fortuna di poter incidere con loro un disco che mi ha permesso sicuramente di passare ad un altro livello, dal livello professionale, dal livello di demo al livello più professionale. Esattamente, più cioè un disco vero ufficiale, è una cosa bellissima, sapere di avere un disco fuori, una cosa fantastica secondo me. Raggiungere un traguardo favoloso. Sì, poi oltretutto è stato un percorso continuo di crescita personale e musicale, soprattutto artistica. Perfetto, 21, 22, 19, quasi 22, 20. Un altro pezzo da disco che tu hai scelto, che traccia era, ti ricordi? La numero 2. Andiamo in ordine, la 2. Sì. Perfetto, andiamo in ordine, che si chiama La Sola ed è Unica. Ne parliamo dopo, la sentiamo prima? Ok, benissimo. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Blue Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, giustamente parlavamo io e te mentre sì. Il pezzo andava. Questo è un pezzo pop. Pop, sì. Ma molto pop, pop sì, decisamente pop. Sì, sì, tu hai scritto anche nella descrizione della traccia lì. Noi ho proprio la descrizione dei pezzi fatti da te, sì. È molto significativa. Mm-hmm. Anche così si capisce cosa, vuoi, cosa pensa l'artista. Che è un pezzo solare, tu hai scritto. Sì, è un pezzo pop. Parla più che altro pop e solare perché è con accordi in maggiore. Sì, e quindi sì, accattivante. Accattivante. Quindi parla di amore nello stadio, in realtà nello stadio iniziale. Quando sono tutte rose e fiori. Tutto bello. L'innamoramento è bello, sei ancora nella fase in cui tutto sembra felice, sembra il meglio per te. E quindi la sola ed unica è la donna della tua vita, la vedi come la sola ed unica, sei ancora in quella fase di estasi iniziale. E quindi ho voluto riflettere questo con una canzone allegra, spensierata, e anche se il testo... Non è proprio allegra, a parte... Il ritornello sì è pop, però c'è qualche parte, frase che è assolutamente un po' più ricercata, quindi si sente forse la mia parte più cantautorale, ecco, e cupa. L'idea di fare un pezzo decisamente agli antipodi rispetto a non mi importa, mi importa un pezzo duro tirato, un pezzo da rompere praticamente. Questo è un pezzo un po' da accompagnare. Cioè buttarsi sulla musica pop per dare una diversa colorazione, diversi tuoi stadi, diversi tuoi momenti musicali. Sì, sicuramente. Poi ho voluto, cioè, non è che è una scelta, io penso che ogni artista e ogni persona comunque ha varie parti di sé, sì, quindi ha vari momenti, varie influenze, sì, certo. E quindi nel non mi importa ho voluto mostrare la mia parte rock, la sola ed unica è la parte pop, ma io non è che solo sono rock soltanto, sono anche pop, sono stato noise e potrei riesserlo anche in futuro. Ho studiato pianoforte, quindi so qualcosa di musica classica, quindi magari più avanti potrei prendere degli arrangiamenti di musica classica e farli miei, quindi non è che sono in contraddizione, sono due canzoni che rispecchiano due lati, ma sono due lati miei, ma sono sempre Paolo Cecchini, sia poi, pop. Che certo, e poi a proposito di Paolo Cecchini, le telecamere ti stanno inquadrando, sì. C'è scritto Led Zeppelin, cioè, la maglietta si intravede Led Zeppelin, quindi più chiaro di così, cioè sì. Tanti universi, tanti orizzonti musicali, sì. Che confluiscono in questo disco, Nel mio mondo, sì. Appunto si chiama Nel mio mondo, forse anche per quello. Sì, anche come disco d'esordio, chiaramente il titolo doveva essere una sorta di presentazione di quello che sono musicalmente. Possiamo dire che, non so se sei d'accordo, che può essere una specie di greatest hits, cioè può essere un raccogliere dei diversi componenti di qualche anno e poi li hai messo qua dentro praticamente. Sì. Non di tutto, però... Può considerarsi anche così. Perché... Non nel senso negativo, chiaramente. I migliori momenti li hai racchiusi qua. Sì, sicuramente come ho detto prima sono canzoni che ho scritto anche molto tempo prima di cominciare a registrare il disco e quindi ci sono canzoni che magari hanno un certo stile perché influenzate dai primi gruppi che ascoltavo, sì, certo. E altre canzoni più mature perché le ho scritte dopo. Cioè. Che funzione hai avuto Stefano e Matteo nel prendere i tuoi pezzi e darti una direttiva, darti dei consigli praticamente? Sono stati molto importanti. Intanto allora hanno ascoltato il demo molto attentamente, il primo disco demo che avevo fatto, e hanno cominciato a farmi da capire quali canzoni secondo loro potevano andare bene per il disco. E poi abbiamo cominciato a lavorare sia dal punto di vista dei testi che di arrangiamenti, ci siamo messi a lavorare insieme e lui mi ha dato grazie Michele, mi manda un foglietto e un po' alla volta abbiamo costruito questo disco, cioè le canzoni c'erano già, però per dirti anche Non mi importa era una parte, il ritornello di Non mi importa era una parte di una canzone che durava 7 minuti del demo, per cui era una canzone abbastanza strana e Stefano ascoltando questa canzone ha sentito il ritornello e ha detto questo ritornello spacca, trovaci la canzone dietro a questo ritornello che diventa il singolo, è nata Non mi importa. Certamente, è arrivato un sms per te, Paolo riesci sempre ad emozionare, ci piacerebbe tanto sentire La tela del ragno, la sentiremo dopo. Maria Teresa e Matteo. Grazie. Eccomi, grazie Maria Teresa. Riepiloghiamo il numero dell'SMS 346 23 20 033. Quindi se volete interagire con Paolo, è a disposizione. Sono Paolo è a disposizione. mentre che a disposizione totalmente, perché adesso suoniamo allora. Benissimo. Cominciamo a suonare. Che pezzo vuoi ci fai sentire? Vorrei cominciare con il pezzo che ha nel testo anche la frase "nel mio mondo", quindi destino. Ok. Okay. Rock Wave, l'onda del rock. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito allora questo pezzo. Puoi bere? No? Bevi dal vivo, non c'è nessun problema. E abbiamo sentito questa lenta ballata, quella ballad lenta, possiamo dirla così. Com'è nata l'idea di questo ballad lenta? Questo pezzo lento. Crepuscolare che prende, che fa sentire, fa pensare anche. Beh, mi sono sempre piaciuti anche i pezzi lenti, cioè non è che il rock è fatto anche di grandi certamente lenti, quindi Boss insegna. Sicuramente è nata come molte delle canzoni, è nata da un giro di chitarra, quindi è partito tutto da quello, poi il fatto che sia lento o veloce, se il giro per convenzione dire lenta, cioè una ballata da sentire, da ascoltare praticamente. Sì, sicuramente poi qui il lavoro di Stefano e Matteo si sente molto. Questa è una canzone che non era nel disco demo, è nata in seguito ed è stata poi inserita nell'album perché aveva sicuramente un bel testo e aveva sicuramente una bella presa, mancava anche all'album mancava un pezzo lento così. E sì, loro hanno fatto sicuramente un gran lavoro, Matteo e Stefano, perché l'hanno arrangiata veramente molto molto bene. Sì, mancava un pezzo lento per dare un momento di stasi al progressivo veloce impasto rock. Sì, anche se c'è un altro grande pezzo che è la Tela del Ragno, che io secondo me è uno dei pezzi più belli dell'album, a mio parere il più bello musicalmente. Grazie, sì, ma ne parliamo dopo, quando arriverà il momento. Benissimo. A proposito dell'album, la copertina dell'album, ci sono due fotografie, una fotografia di una signora, di una bambina, mia sorella, ecco, esattamente, svelo proprio. È la mia sorella Alessandra in copertina, e nel retro se si guarda bene c'è una foto un po' piccolina dove c'è, sì, si vede piccolissima, e c'è l'altra mia sorella Rossella che voleva anche lei essere davanti. Sì, c'è stata anche una mezza lite tra di loro e con me, perché ho detto: ma perché hai messo Alessandra in copertina nello scatolone dietro sotto con le altre? E poi allora ho aggiunto questa foto perché per evitare gelosie varie. No, ma questa è una, cioè, chiaramente gelosie sempre buone, sicuramente sì, sempre buone, mi vogliono bene, sono il bene dell'anima, quindi... Cioè, l'idea della copertina è stata tua praticamente? Sì, in realtà è nata facendo il video di Non Mi Importa, che si può citiamolo, il video di Non Mi Importa su YouTube, si può vedere il primo singolo che Non Mi Importa. C'era l'ultima location che abbiamo fatto, l'ultima parte del video. È stata un'idea del regista Enrico Tomei di mettermi proprio la testa in una scatola, cioè il video partiva da spazi ampi per poi ristringersi sempre di più, quindi abbiamo girato a Verona, quindi prima al Lago di Garda, poi in un centro commerciale grande, all'Arena di Verona, e pian piano sempre più stretti, quindi in un bosco, in una stanza, dentro la doccia, dentro un armadio, e siamo andati a finire dentro una scatola che era vuota. E da lì ho preso l'idea della scatola, però riempita con oggetti che rappresentassero quello che sono io. Certamente. Dei libri. Confezione molto bella. Citiamo anche la casa discografica, visto che ci siamo. È la Pitta Records. La Pitta Records? Sì, sì. E edizioni Bass Department, che è quella di Matteo Franzane, Buona Onda edizioni di Stefano. E dove si può trovare il tuo disco? Si può trovare su iTunes. È scaricabile. Sì. È scaricabile, e poi si può comprare i concerti quando sì, per sì, concerti che... quando suono. Quando suoni, chiaramente, sì. Con la band. Oh, suoni da solo o anche con la band? Anche da solo qualche volta. Come hai fatto qua adesso? No, è capitato. No, solitamente suono con la band. Di Paolo Pagliani e Francesco Tessarolo Crobu, che ringrazio. Cioè, benissimo, ti salutiamo. Batterista e bassista. Poi capita magari dal vivo che faccia un paio di pezzi da solo, perché per un po' per staccare, per fare anche prendere fiato al batterista, un po' di unplugged praticamente. Sì, sì, che poi che ci sta bene sempre. Certo, fare riposare il batterista, che è la macchina ritmica praticamente. Sì, Michele mi dà un altro SMS. Tutte le tue fan scatenate. Veramente, grazie. Ok, sì, dunque, sono belle. Una scrive: belle canzoni, complimenti a questo giovane artista, bravo, originale, un vero talento. Però non sono stati firmati, non so chi siano. Beh, praticamente. Ringrazio questi ragazzi. Ringraziamo lo stesso, bello da vedere, oltre che da sentire questo check-in, musica orecchiabile e coinvolgente, finalmente un pop rock italiano di spessore. Un altro bel complimento. Troppe lusinghe. Esattamente. Li firmate è meglio, però, si vede chi ti li ha mandati praticamente. Però va bene lo stesso. Ok, andiamo avanti. Nella scaletta del disco cosa c'è? Ti ricordi che traccia? Passiamo alla cover di Milano. Ah, la cover di Milano Vincenzo? Di Alberto Fortis. Che bella. La sentiamo e poi ne parliamo, perché è una cosa molto interessante questa. Rock Wave. L'onda del rock. Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buona, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Oh Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ok, sono le 22.40, chiaramente assolutamente in diretta con Paolo Cecchini e presentare Nel mio mondo, questo suo nuovo album, nuovo, l'album di esordio praticamente, sì, sì. L'album, cioè l'album lungo, possiamo dirlo così, quello sì, proprio sì. Compito al 100%. Sì, sicuramente. E ricordiamo anche SMS 346 23 20 033 per chi vuole interagire con Paolo, è già successo, è già continuerà fino alla mezzanotte. Speriamo. Salutiamo anche tre nostre affezionate ascoltatrici che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia e tutte le altre che arriveranno chiaramente. Parliamo di questa cover, è molto interessante, innanzitutto è la numero 4, cioè la traccia numero 4, sì. E sempre, secondo me c'è un motivo perché l'artista mette determinati pezzi in determinate scalette, perché è la numero 4 e non alla numero 2 o la numero 7? Sicuramente c'è sempre un motivo, un gran cervellarsi quando si fa la scaletta, si mette la scaletta e tracce, esatto. Diciamo che la prima dovrà essere l'apertura e siccome anche per questione di comodità per cui l'album andava su iTunes, quindi la prima canzone era meglio che fosse il singolo, quindi abbiamo messo Non mi importa, poi certo. Era la canzone sicuramente che mi rappresentava di più. Milano Vincenzo è la quarta perché ho preferito mettere prima tre canzoni che rappresentavano un po' i miei vari lati, quindi rock, pop e anche ballata. Certo. E quindi poi fare il mio omaggio ad Alberto Fortis, che è un grande autore. L'ha come mai quarto posto. Alberto Fortis? Perché Alberto Fortis? Milano Vincenzo è una canzone che conoscevo già da prima, era sicuramente la canzone più famosa di Alberto Fortis, non ci sono dubbi su questo. E, la conoscevo già da prima e ho sempre avuto il desiderio di provare a interpretarla a modo mio. Chiaramente poi ascoltandola e cercando di capire che tipo di musicista fosse Fortis, mi sono messo ad ascoltarlo più approfonditamente ed ho capito che veramente era un artista tutto tondo e molto bravo sicuramente. E poi anche lui un artista influenzato sicuramente, se si ascoltano i suoi album, dai Beatles. Certo. Io che sono un fan sfegatato dei Beatles, l'ho apprezzato molto e quindi il fatto di ascoltarlo e di apprezzarlo mi ha spinto ancora di più a voler provare a fargli questo regalo, fare questa canzone. Io l'ho trovato molto bella la tua versione sentita. Grazie. si vede che ami particolarmente questo pezzo, hai dato tutto te praticamente, l'hai colorato, l'hai trasformato come nei tuoi intendimenti. Sì, è stata una delle ultime canzoni che ho registrato, questa in studio, e devo dire che è stata anche una registrazione, cioè, hai ragione tu sul fatto che è una canzone che è sentita e che sentivo mia, perché difatti quando sono andato a registrarla ho fatto praticamente due take vocali ed era già fatta la parte vocale, quindi quando succede così vuol dire che la canzone ti entra e riesci a dare subito il massimo cantandola, quindi questo fa capire che è una canzone che mi piace moltissimo. E beh, forte, se difficile da cantare, molto difficile. Sì, ovviamente non l'ho fatto. Chiaramente non l'hai fatto a Alberto Forti, ma l'hai fatto a Paolo Cecchini, è giusto che sia così. Però è difficile, anche i pezzi di Forti non sono semplici, decisamente. No, non sono assolutamente semplici, un autore complicato. Ma è un attore che è interessante, molto interessante, come abbiamo detto. Facciamo un altro pezzo da disco, cosa dici? Che traccia hai scelto adesso? Ho messo un'altra cover in realtà. Quella di Vasco stavolta. Quella di Vasco Rosso. Come mai una cover di Vasco? Ma ne parliamo dopo, prima la sentiamo, ok? E la traccia 2, ti ricordi il numero? La numero 7. La numero 7. La nostra relazione di Vasco. Perfetto, Rosso. Una traccia, un pezzo di cover di Vasco, Fortis e Vasco. E poi, giustamente, poi tutti gli altri sono pezzi tuoi. Tutti gli altri sono. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito allora questa cover di Vasco. Sì. E questo è un primo pezzo di Vasco dal primo album, sì. Quindi un Vasco antico nel senso positivo del termine. Sì. Come mai hai scelto un Vasco così lontano nel tempo? Beh, questa canzone mi è stata proposta in realtà dal produttore Stefano Florio. Mm. E poi io ovviamente sono andato ad ascoltarmi altri pezzi di Vasco Rossi per capire un attimo cosa faceva proprio nei primi album, che musica, che tipo di musica faceva, che tipo di impatto aveva, che tipo di testi. E ho cercato di capirlo al meglio, e questa, la nostra relazione è sembrata la canzone forse più adatta, sia dal punto di vista di musicale e anche dal punto di vista di testo, perché parla di una relazione che si è trascinata stancamente per molto tempo e che è finita, e può essere collegabile a un, in un certo senso anche a Non mi importa come tipo di tematiche, no? Quindi la fine di una relazione di fiducia, e quindi sia dal punto di vista del testo che dal punto di vista musicale si adattava bene a quello che poteva essere il genere di tutto il mio album. E poi sicuramente anche un riconoscimento, una forma di riconoscimento a un'icona della musica italiana come Vasco Rossi, del rock italiano, diciamo. Come lo giudichi, cioè il Vasco di adesso ti piace ancora oppure è un po' diverso? Non so se sia diverso, penso che la canzone è stata scelta infatti perché era il primo Vasco. Il primo Vasco era sicuramente più genuino, più diretto. Anche se fa 5 sold out lo stesso anche adesso in ogni caso. È l'unico artista italiano che riesca a fare 5 sold out qualche tempo fa, non tanti anni fa, l'anno scorso, 2 anni fa, a Milano 5 sold out, quindi nessun altro è riuscito, neppure i Rolling Stone quando sono venuti in Italia, hanno fatto il sold out. Penso che Vasco sia forse, anzi sicuramente l'icona del rock italiano, e non so se adesso abbia la stessa motivazione, forza o la stessa immediatezza che aveva all'inizio. Però le canzoni funzionano sempre, è sicuramente un grande autore. È un grande curatore, un grande costruttore di pezzi, questo è un grande lavoratore, quindi sicuramente la mia stima assoluta va è immutata verso per Vasco. Ok, adesso sentiamo un pezzo però dal vivo, secondo me. Va bene. Cosa hai scelto di cantare praticamente? Adesso faccio Happy Hour. Ah, Happy Hour, che è un pezzo più molto duro per me. Molto duro, sì, la faccio in versione acustica. Vediamo come verrà. Va bene, ok. Cerchiamo. Rock Wave. L'onda del rock. Senza dolore non c'è compassione, senza l'istinto non sarei mai nato, senza rischiare non ti avrei trovato, senza l'altro non c'è libertà, senza la fame non c'è sazietà, senza i sogni non c'è la realtà, senza bugie non c'è la verità, e puoi ignorarmi ma sai che tu non esisti senza di me. Puoi torturarmi senza un perché, pagherò io anche per te, pagherò io anche per te, pagherò io anche per te. Senza ricchezza non c'è povertà, senza pazzia non c'è normalità, senza rumore non c'è melodia, senza amore non c'è gelosia, senza materia non c'è anima, senza denaro non c'è avidità, senza leggi non c'è anarchia, senza i ricordi non c'è nostalgia, e puoi ignorarmi ma sai che tu non esisti senza di me. Puoi torturarmi senza un perché, pagherò io anche per te. E puoi ignorarmi, ma sai che tu non esisti senza di me. E puoi torturarmi senza un perché, pagherò io. Salute non c'è malattia, senza trasformazione monotonia, senza il dubbio non c'è certezza, senza la noia non c'è tristezza, senza amore non c'è gelosia, senza rumore non c'è melodia. via. Senza la luce non c'è oscurità, senza di te non c'è la mia metà. E puoi ignorarmi, ma sai che tu non esisti senza di me. E puoi torturarmi senza un perché, pagherò io anche per te. E puoi ignorarmi, ma sai che tu non esisti senza di me. E puoi torturarmi senza un perché, pagherò io anche per te. Pagherò io anche per te. Pagherò io anche per te. Pagherò io anche per te. Pagherò io anche per te. Pagherò io anche per te. Mi dispiace ma non mi diverto più. Ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Mi dispiace ma non mi diverto più. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. È una canzone rock filosofica, quindi sì. Lancia dei messaggi. Adesso la spieghiamo, la allarghiamo. La spieghiamo. Beh, è piuttosto è filosofica. È filosofica. Dei concetti abbastanza semplici. Sì, parla dei contrari, quindi dell'unità dei contrari. Mm. Quindi del fatto che senza rumore non c'è melodia, che può essere. Che è una frase della canzone che può anche adattarsi ovviamente al tipo di trascorso musicale che ho avuto, certo, io, certo. Cioè il noise, quindi la melodia, il pop che abbiamo citato, certo. Però questa regola dell'unità dei contrari vale, almeno questa è una mia opinione, cioè che vale un po' per tutto, quindi senza il concetto di pace non c'è neanche il concetto di guerra, senza il concetto di anarchia, cioè senza le leggi non può esserci anarchia, perché se c'è anarchia vuol dire che sei contro le leggi, vuol dire che le leggi ci sono, quindi è piuttosto semplice, è una filosofia spiccia, però con un giro di chitarra molto... È quello che mi interessa, con un giro di chitarra decisamente rockettare. Sì, sì. Decisamente rock, potente, perché è bello che sia così. È bello che sia così. Poi un testo un po' filosofico con un giro di chitarra piuttosto semplice, forse un connubio mare non così scontato. Ti sparo quattro messaggi che sono appena arrivati. Stiamo allargando. Sto guardando la diretta in video streaming, la ringraziamo Maria, davvero fantastico, splendido talento, complimenti, questa è Maria. Grazie mille Maria. Poi complimenti per la versione acustica di Destino, grande Paolo, Franci. Grazie Francesco. Poi Paolo sei fantastico, grazie delle emozioni che mi hai trasmesso da Beatrice, questa è Beatrice. Grazie Beatrice. Poi un'altra che dice, ma una sera vorrei fare i complimenti a Paolo Cecchini e chiedere se può dedicare la canzone in tela di Tela del Ragno a Gabri, grazie, buonasera. Benissimo, lo farò. Tela del Ragno è gettonatissima. Tela del Ragno, sì, è un pezzo favoloso. È una delle mie preferite. È un pezzo ovviamente. Molto bello, favoloso, sì, secondo sì, me. Sì. Dopo adesso ci siamo. Michele lo sa, tu non lo sai. Adesso c'è il giochino. C'è il giochino. Che giochino? I 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ci devo pensare. No, una cosa veloce. Una cosa veloce. Spariamo 5 dischi da portare su un'isola deserta. Che non è l'isola dei famosi, ma è l'isola dei rock wave. Allora, beh, ti dico i gruppi. Beh, sicuramente. Sì, dei Beatles, Sgt. Pepper. Come mai Sgt. Pepper? Perché la Bibbia del rock? Perché Sgt. Pepper? Perché è dopo Revolver? Sì, Sgt. Pepper, dai. Sgt. Pepper, portiamo Sgt. Pepper. E Day in the Life vuol dire tutto. A Day in the Life, prima di addormentarsi, penso. Io la consiglio favoloso, a tutti prima di addormentarsi. Incredibile. È una cosa strepitosa. Visto che adesso c'è il ritorno dei 70 anni di John Lennon, sono ritornati per altre vie, per altre cose, ma Day in the Life... Lennon McCartney, ragazzi, ok. Sì, quelli per omaggio proprio ai Beatles. Poi sicuramente direi dei Nirvana, probabilmente. Probabilmente l'Unplugged. Bello quello. Una scelta un po' di. Forse è l'Unplugged più venduto, lo sapevi, della storia della musica rock, no? Bellissimo, meraviglioso, in forma smagliante. Sì, pensare che era pochi mesi prima del tragico avvenimento. Era quindi, pochi mesi, però. Bello, bellissimo. Un'emozione incredibile. E, sicuramente direi dei Led Zeppelin il secondo. E c'è anche la maglietta. Che sono anche la maglietta, il secondo album. Il secondo album. Lì ci sono dei pezzi, uno vale l'altro, sono tutti pezzi strepitosi. Io preferisco il terzo album perché è il più folk, secondo me. Sì. Anche se nel quarto c'è sta Way to Eve, dobbiamo tutti alzarci in piedi. No, ma quella canzone sicuramente 9 minuti e 12 rimarranno sempre. Quella canzone sì, se fosse stata la canzone da portare, quella probabilmente l'avrei portata. Quella sarebbe album, forse il secondo, va bene. Ci sto pensando di vedi Michele c'ha già propinato bellissimamente i Led Zeppelin, favolosi. Stavo pensando di Pink Floyd. Cosa vuoi di Pink? Probabilmente uno dei... Mi piacciono i Pink Floyd dei primi album. Quindi con Syd Barrett o dopo Syd Barrett? Quelli anche di Syd Barrett e subito dopo. Subito Syd dopo, Barrett. Appena prima che Waters prendesse il sopravvento praticamente con The Wall. Certo. The Dark Side of the Moon, per dirti. Quindi mi piacciono gli album prima, adesso non mi ricordo. Atom Heart Mother sicuramente. A proposito di questo, devo dirti che nelle classifiche italiane di questa settimana è rientrato The Dark Side, è rientrato The Wall, è rientrato Atom Heart Mother. Tanto per cambiare. Sì, poi sicuramente in realtà di dischi non li ho ascoltati, però ho ascoltato ho visto il DVD, penso, del Live at Pompeii, che quello famosissimo, celeberrimo. Sono rimasto veramente fulminato da quel tipo di canzoni, secondo me strepitose. Echoes è un capolavoro. Ma i Pink sono tutto interessante, la prima all'ultima nota. Siamo arrivati a 4, te ne manca ancora 4, uno. 4 credo, adesso sì. Sto pensando di italiani. Italiani, volevo dirti, italiani li lasciate da parte? Italiani... Non saprei. O faccio un po' fatica. Ascolto un po' di tutte. Fortis. L'abbiamo citato già con la tua cover. E Vasco lo stesso. Ma al di là dei Fortis e Vasco? Ci sto pensando. Perché in realtà musica italiana non l'ascolto. Non l'ho. Cioè, questa è una mia pecca. L'ho ascoltata non molto approfonditamente. Quindi l'ascolto quello che passa in radio. E quindi. Direi forse gli After Hours. Gli After Hours, ma non è ci sto pensando su quale album, perché mi hanno fatti tanti di belli anche Hai paura del buio, ecco, piaceva, quello è un grande disco, mi piaceva molto. E non da Ostelle, per esempio. Ostelle mi sono... Non ti piacciono? No, mi dispiace anche, cioè sono bravi sicuramente, però mi danno l'idea. Questa è una mia idea, sbagliata, certo. Una mia opinione, chiaramente, quindi nulla da dire dal punto di vista artistico e musicale. Mi danno l'idea un po' di snob, cioè, questa aria... A quell'idea là, ti fa quell'idea là. Sì, molto bravi, però come che... Non so spiegarti, però... No, ho capito. Snob penso sia la parola giusta. 23.01, adesso mettiamo un pezzo da disco. Ti ricordi la traccia che hai scelto? Sì, ho messo la numero 8. La numero 8, che è praticamente Spero. Una canzone che tu hai scritto basata su un giro di chitarra. Ma adesso la spieghiamo più tardi. Beh, adesso sì. La sentiamo prima, ok? Sì. Rock Wave. L'onda del rock. Creatività, spero. viaggio, spero non sia solo pubblicità. Spero sempre in ogni tua promessa, spero che mi porti felicità. Spero di cadere fra le tue mani, so che non mi lasceranno mai. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Sono le 23 e 5 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Adesso descrivi Spero e poi hai scritto nella tua descrizione. Sì. Mi sono ispirato ai Pixies. Adesso allarghi il discorso. I Pixies, mi sono dimenticato prima di citare i Pixies. Sì, sicuramente è una canzone che parla di speranza, è abbastanza scontato. Come. Sì, i Pixies perché secondo me sono un grande gruppo, un gruppo forse non molto conosciuto, ma sono stati un gruppo che è riuscito a conciliare bene la melodia pop con l'aggressività e con l'immediatezza magari del punk o della musica anche folk americana, quindi e spero, penso che il giro di chitarra così veloce un po' preso dai Pixies, un po' dai Nirvana, sicuramente penso che l'influenza sia stata di entrambi. Sicuramente i Pixies sono un gruppo che ho ascoltato subito dopo i Nirvana e Sonic Youth, ho cominciato ad ascoltare anche i Pixies e mi sono innamorato subito. Me la fai 30 secondi il giro di Spero? Ce la fai? Sì, sì, sì. Se vuoi la canto anche. Una strofa, dai. Spero nella fantasia infinita, spero in una nuova libertà. Spero nella forza della vita, spero nella mia creatività. Spero di incontrarti se sono solo, spero di lasciarti se sei con me. Spero nelle mie sensazioni, so che non si esauriranno mai. Eccola. Chiarissimo, chiarissimo. Benissimo, questa era Spero. Mi interessava il discorso musicale, come l'hai composto, l'idea è partita da qua, da là praticamente. L'idea è partita tutta da questo giro di chitarra che poi si apre sul ritornello che ripete continuamente Spero. Sì, poi ovviamente come la maggior parte dei testi di questo album sono per scrivere il testo molto spesso parto da una parola o da una frase, quindi sono partito da Spero e poi il testo dopo una frase che scrivi Spero nella fantasia infinita, poi è diventato piuttosto facile proseguire il resto, sono diventate una serie di speranze che mi rappresentano. Quindi in questo album la scrittura dei testi molto spesso parte così, quindi parte da una frase, da una parola che poi si sviluppa in tutto un testo. Quindi musica e parole tue praticamente. Sì, sì, la musica e i testi miei. La musica ti ha dato una mano i produttori a sistemarla oppure è quella? Sono dei piccoli aggiustamenti, solo dei piccoli aggiustamenti? Sono piccoli aggiustamenti, diciamo, perché no, le canzoni sono rimaste, non dico uguali al demo, però la maggior parte dal punto di vista degli accordi, dal punto di vista melodico sono rimaste uguali, poi chiaramente la tonalità magari è stata abbassata o alzata a seconda della mia voce, perché io ero ancora acerbo, non capivo se era troppo alta effettivamente per me, se arrivavo bene con il testo, e quindi più che altro sono stati aggiustamenti dal punto di vista di tonalità e poi di arrangiamento, che loro hanno fatto moltissimo. Però le canzoni come le ho fatto io adesso in acustico erano così nel demo, sono un po' più elaborate, poi loro le hanno arrangiate in maniera più... Tu hai citato dei musicisti, puoi citare altri musicisti hanno partecipato al disco oltre a quei che hai citato oppure no? Sì, ha partecipato, adesso qui non mi ricordo tutti i nomi, mi ricordo Giulio Filotto alle tastiere, Anna Stoyanova, mi sembra, non so se sia il violino, i cori. Comunque adesso non vorrei, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, però non vorrei adesso dimenticare. Gli studi, se ti ricordi. Abbiamo registrato a Verona, nello studio di Matteo Franzan, adesso non mi ricordo neanche. Sì, quindi a Verona praticamente. LPS Records. Ecco, LPS Records a Verona. Benissimo. Tutte le ste richieste confluiscono in un pezzo, La Tela del Ragno. Questi gli ascoltatori che hanno scritto l'SMS, sì, vogliono sentire tutti La Tela del Ragno, me compreso, un testo, pezzo meraviglioso, La Tela del Ragno. Grazie, la sentiamo live, lo fai adesso, ok? Sei d'accordo? Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo, ci siamo. Pezzo meraviglioso che voglio dedicare a Gabriella Matteazzi, che è una delle mie più accanite fan. La ringrazio. Perfetto. Di cuore. Per, perché prende così tanto questo pezzo secondo te, Paolo? Non lo so, prende moltissimo anche me, cioè, quando l'ho scritta e l'ho riascoltata spesso, e è sempre è un pezzo che secondo me è molto evocativo, cioè, e quindi anche come testo molto ermetico, lascia molto spazio all'immaginazione, e questo penso sia la bellezza della canzone. Poi sicuramente l'arrangiamento, come è stata studiata la canzone, è piuttosto eterea, piuttosto sognante. Questo penso sia il bello della canzone. Non è una canzone terra terra, è una canzone che quasi ti porta in un'altra trasporta. Sì, sì, almeno a me ha sempre dato questa sensazione, per questo mi piace moltissimo. Nella recensione che noi abbiamo scritto, una melodia sognante, come tu hai detto, sì, coinvolgente, che si incastra perfettamente con la solista in una dolce e prolungata danza. Sì, sì, sicuramente. Io noi l'abbiamo sentita così, l'abbiamo vista così. Adesso sì, non lo so come sia risultata da acustica, ma penso che possa venire molto, molto bene anche da questo, perché è una canzone comunque molto, molto intima. Se vuoi ti spiego anche te la spiego un attimo come sì, esattamente, e poi io ti faccio una proposta. Adesso me la spieghi totalmente e poi sì, ti faccio questa proposta. Okay. La sentiamo dal disco, che okay, è la traccia numero 11. Intanto diamo il tempo a Michele a predisporre la 12. Ok, allora mi crei come l'hai costruita? No, in realtà l'ho scritta e poi rileggendola, no, questa avevo in mente questa situazione. Era chiaramente una canzone d'amore, e mi immaginavo questa una specie, una coppia, no, di innamorati in una baita in montagna con la neve che scende fuori, una baita di legno con il camino acceso, e al tramonto tra me e te scende la sera, no, senza far rumore, la tua mano accende la mia vita, proprio è sicuramente un'allusione che può essere all'atto d'amore, quindi Quindi l'atmosfera era questa, quell'atmosfera sognante, l'atmosfera della luna, magari riflessa dalla neve, poi difatti dico la neve che scende la neve. E questa coppia unita nell'amore di fronte al fuoco, con la neve che scende fuori. Una situazione, penso, ognuno o una coppia di innamorati desidererebbe vivere nella quiete, nella solitudine, solo due cuori che si uniscono. E la tela del ragno è l'immagine che ho usato per mostrare il destino che ha portato questa coppia, questo intrico di fili che ha portato questa coppia ad unirsi, a provare l'amore, a provare l'ebbrezza dell'amore. Ho visto che nel disco tu suoni la... Adesso dopo il pezzo lo sentiamo, Tu suoni... Volevo dire che ha suonato anche Matteo Franzani e Stefano Flora nel disco. Come oltre che produttori sono anche stati strumenti. Ma tu anche suoni a batteria, percussioni, sì, chitarra, sì, sì, piano elettrico praticamente. Sì, suono un po'. E poi tutto... quello che capita. No, ti sei dato da fare. Poi una cosa che non abbiamo detto, sì, il mastering è stato fatto da Claudio Giussani presso gli studi Nautilus di Milano. È un bel... anche quella è una bella cosa. Una bella cosa, perché professionisti al massimo, quindi... abbiamo puntato una cosa fatta bene, una cosa, sì, fatta, esatto, in grande, quindi sono veramente contento di aver conosciuto Matteo, Stefano, di avere il mio produttore, guardia del corpo, alias autista, Ronnie Bellotto. Ronnie che è nascosto. Mi hanno aiutato. Esattamente. Allora, cosa dici? Sentiamo questo, La tela del ragno, sentiamo, nella versione da disco. Benissimo. Così diamo... Tu l'hai fatto prima acustica, sì, hai dato la tua versione, chiaramente non c'è la band, ha dovuto farla in questa dimensione. Adesso la sentiamo com'era nel disco e poi andiamo ad altre cose, cioè un altro pezzo da disco assieme. Però adesso sentiamo La tela del ragno numero 11, che, okay, ripeto, noi abbiamo trasmessa per un mese consecutivo, è stato decisamente un pezzo indovinatissimo. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, qualcosa di servizio, hai il tuo sito, lo citiamo? Sì, www.paolocecchin.it. Dove cosa possiamo trovare? Si possono trovare le news, anche degli estratti dall'album, quindi 30 secondi di tutte le canzoni, si possono ascoltare, e foto, e i testi anche delle canzoni, e soprattutto le news, quindi le prossime interviste, i prossimi concerti, i prossimi lavori. E al momento sono fermo perché sto preparando già, ti do l'anticipazione, sto già preparando l'album successivo. Già domani probabilmente mi trovo con Stefano Florio per discutere sulle canzoni nuove, capire gli arrangiamenti e tutto, quindi è un lavoro frenetico, quindi più che altro mi sto concentrando su questo, e poi quando avrò un repertorio un po' più ampio, probabilmente l'anno prossimo cominceranno anche i concerti, quelli seri. Quindi si può dire, hai preso il gusto nel senso positivo del termine, insomma, ad ampliare il discorso. Sì, sicuramente. Io mi ritengo, sono sempre ritenuto un autore più che cantante, più che strumentista, sono un autore, quindi il fatto di scrivere, continuare a scrivere musica e di far dischi e di scrivere canzoni è la cosa che mi dà più soddisfazione, e quindi se ho materiale è giusto che mettersi là e arrangiare, a studiare per fare un altro album e continuare per questa strada. E l'autore Paolo Cecchin come crea un pezzo? Come si sviluppa? L'idea dove parte? È difficile, bisogna capire l'idea, cosa si intende per idea, perché molto spesso parte suono la chitarra, mi viene, però non so da dove viene, in realtà non so da dove arriva, potrebbe venire da forse il destino, le mie capacità, il Dio, chiamiamolo come, il fatto, chiamalo come vuoi, però mi arriva questa ispirazione, diciamo, che può nascere magari facendo un giro di chitarra, magari lo fai anche senza pensarci più di tanto, perché il 90% delle volte è così, cioè, capita meno spesso che la canzone nasca dal punto di vista proprio razionale, cioè mi metto lì con un accordo, poi dico ci penso, adesso metto un accordo in minore perché ci sta bene, no? Molto spesso suono, la mano va da sola, gli accordi, sento un giro che va bene, basta, ecco, la canzone nasce così, non so da dove arrivi. Ma come la acchiappi poi praticamente? Appena ho il giro di chitarra, e molto spesso parto anche a cantare una melodia, magari che può essere un na-na o in inglese maccheronico, tanto per fare un po', per capire un po' la struttura, e da lì poi si sviluppa tutto. Il testo solitamente viene molto dopo, però non è neanche detto, perché alcune canzoni il testo è nato praticamente subito. Altri invece ci vuole è stato un po' più difficile, è stato molto difficile, tipo La Tela del Ragno è nato veramente subito. È stata una cosa veramente, non mi sono chiesto anch'io come sia successo, che fatta sta canzone che a me emozionava tantissimo, e poi è nato subito il testo, quindi ho detto troppa grazie, veramente tutto ok. Invece ci sono altre invece che magari fai la canzone, poi la lasci là e passa un 15 giorni, un mese, e poi ti viene l'idea per la frase e la completi, però cioè molto spesso non sono uno di quelli, cioè faccio fatica a concentrarmi, cioè se devo trovare un testo e vedo che dopo mezz'ora che ci penso non mi viene niente, molto spesso lascio là. Ho capito. E aspetto più che altro che l'idea venga da me, più che a star lì. Certo. A forzare troppo e non essere anche spontaneo. Benissimo, 23-26, adesso suoniamo ancora. Che pezzo hai deciso di far sentire? Direi di fare, sono incerto tra due, ma ti faccio La mia anima resterà. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Cambia ogni cosa, tutto intorno a me. Cambia ogni forma ed ogni mia verità. Cambia in motivo, la mia ragione di esistere. È cambiato il senso della vita per me, per me. Cambia il mondo ed il mio modo di vivere. Cambia la pelle, muta, si trasforma. Cambia la gente, il vizio e l'abitudine. È cambiato il senso della vita per me, per me. Sorgerà, riuscirà a volare più su e ti raggiungerò. E la mia ingenuità. Sono cambiati i sogni, le opinioni e le lacrime. È cambiato il senso della vita per me, per me. Sono le 23 e 31 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, adesso sto leggendo una dichiarazione tua di qualche tempo fa, sì, a proposito di certi talk show, di certe manifestazioni musicali. Sì. Tu preferisci il live, cioè suonare dal vivo? Anche con un numero di persone non altissime, però preferisci che le persone sappiano che tu suoni live. Mentre i talk show, questi programmi un po' prefabbricati, non sono proprio sulle tue corde. No, non sono quello che ho voluto. Non sono la strada che ho voluto scegliere, perché ovviamente ognuno è libero di fare. Un musicista può fare le scelte che vuole. Se pensa che la pubblicità di un reality show musicale come X Factor oppure Amici, adesso non so, adesso possa, cioè se il gioco vale la candela, se secondo loro può essere importante la pubblicità, se si punta più che altro alla visibilità, ok, che sono liberi di fare questa scelta. Io più che altro, essendo, come ho detto anche prima, più un autore, punto maggiormente sulla credibilità artistica mia personale, quindi preferisco, cioè, secondo il mio punto di vista, quei talk, quelli reality più che talk show, sono più reality per cantanti più che per autori. Io mi ritengo più che altro un autore. Cioè, io ritengo più un creativo della musica, quindi andare in un X Factor mi sentirei comunque limitato. Cioè, non è il mio campo cantare, cioè, ci sono 10.000 cantanti solo in Veneto migliori di me, per dire, ma però io so scrivere canzoni, io sono un artista perché scrivo canzoni, perché so suonare vari strumenti, riesco a capire abbastanza la musica, ad arrangiare le canzoni in maniera discreta, e quindi punto su quello, e punto soprattutto sulla credibilità per questo disco che dico, non disco, per questo dico che preferisco avere un pubblico magari più ridotto e più selezionato, più, però. Esattamente, sì. Non un pubblico di origine controllata, di origine è anche protetta. Non una riduzione in senso negativo, quindi, assolutamente. Poi chiaramente se viene il grande successo, io non è che rinnego il grande successo, se capita che una canzone ed un video ha un grande successo, grandi richieste, io non è che poi chiaramente sputo sul piatto in cui mangio, e quindi lo accetto sicuramente, però sono conscio che parte del successo che ho ricevuto è successo superficiale, successo, cioè il 90% delle persone che mi seguono in quel momento di grandissimo successo sono persone che conoscono solo quella canzone, quindi non è che non mi monterei di scuro la testa. E poi il problema è che chi parte dal successo di questi reality show poi il pubblico si dimentica. Sì, quello è il male, si dimentica, ne viene fuori un altro personaggio, un altro artista, e si dimentica il precedente. Sì, difatti non l'ho neanche detto prima, ma è anche il rischio andare in quei reality musicali è un gran rischio, perché ti trovi di fronte a una grande popolarità, però una popolarità magari superficiale, superficiale, non sei credibile come artista, quindi magari fai un disco, ti va bene perché fai un disco, hai 2-3 pezzi orecchiabili, però se non hai il contenuto dentro, se non sei un cantautore che sa scrivere canzoni, oppure se non hai, cioè poi magari puoi avere la fortuna di avere una squadra dietro che punta su di te e che ti scrive le canzoni, e quindi magari vai avanti per 3-4 dischi e allora riesci anche ad emergere, ma se uno non ha la fortuna di avere una squadra dietro che gli scrive le canzoni, o la fortuna di essere in grado di scriversi le canzoni e di avere una certa credibilità, di avere una certa delle opinioni da dire, poi è facile bruciarsi. Quindi è anche questo, per questo che non ho scelto questa strada. Perché mi è stato anche detto di provare. Mi ha fatto anche delle interviste e mi ha detto: ah, tu potresti anche, avresti potuto scegliere la strada del reality show, hai gli occhi azzurri, biondo, dici, ma... Però mi ha fatto anche i complimenti, però io gli ho spiegato che io sono un autore, non mi interessa questo, poi sono biondo, sono bello o brutto, tu sei un autore, quello autore, punto. Esatto. Diretta rockway.altavista.org, ci potete vedere e sentire stasera con Paolo Cecchi. Io direi di far sentire quel pezzo che è il pezzo più rock dell'album, un pezzo un po' distorto, che è la traccia, mi pare che è la 11. Numero 8. La 8 e l'11 abbiamo già sentita. No. La 11, no, la 11. Perfetto. Ho sbagliato io. Traccia numero 11, che è il pezzo bello rock. Ben sostenuto, rock, che si inserisce nel filone dei Led Zeppelin, che praticamente è la maglietta. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. giorno ti penserò, immaginerò che sei qui vicino, forse un giorno ti mostrerò cosa vuol dire vivere davvero, forse un giorno ti penserò, immaginerò che sei qui vicino, forse un giorno ti mostrerò cosa vuol dire vivere, e sarà, e sarà, ti sorprenderai nero, e sarà, ti sorprenderai nero, ti sorprenderai nero, ti sorprenderai nero, forse un giorno ti parlerò, aprirò le porte del mio pensiero, forse un giorno ti mostrerò cosa vuol dire vivere, e sarà, e sarà, ti sorprenderai. Io resterò il sole, forse un giorno ti penserò, forse un giorno ti mostrerò, forse un giorno ti abbraccerò, forse un giorno ti parlerò, forse un giorno ti penserò, forse un giorno ti mostrerò, forse un giorno ti abbraccerò, forse un giorno ti parlerò. Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco, questa qua io ho scritto nella recensione, sì, della relazione. È un bel pugno punk. Sicuramente, sono d'accordo. Perché secondo te ho scritto un bel pugno punk? Perché il punk io lo sento in questo pezzo. Sì, sicuramente. I Pixies non sono punk, però insomma... Duretti, no, si sente il ritmo, il ritmo che parte all'inizio, quindi molto una batteria pulsante, e un po' un riff di chitarra che può essere anche dalle Zeppelin, quindi la maglietta serve allora. Sì, la maglietta, sì, è stato il merito di questa maglietta che ho fatto. No, è una canzone sicuramente forse la più rock dell'album, addirittura di più di Non mi importa, secondo il mio punto di vista, perché è basata proprio su un riff di chitarra veramente da rock classico, può essere anche anni 70, quindi anche se poi nella strofa cambia ritmo, diventa pop, e quindi è una canzone che racchiude bene quelli che sono i miei lati, quello più aggressivo e quello più rumoroso e quello più pop. Tra l'altro questa canzone è stata scelta come secondo singolo, di cui ho anche girato il video una quindicina di giorni fa, adesso fra poco sarà terminato, è in fase di montaggio, e ho girato proprio nei dintorni di Vicenza prima dell'alluvione, per fortuna, perché ero proprio andato anche nella zona di Riviera Berica, dove ho visto c'è stato un disastro, che se fosse stato se avessi girato in questi giorni sarebbe stato impossibile, assolutamente avrei dovuto arrivare in gommone, e quindi sì, la canzone che mi rappresenta moltissimo, un testo piuttosto criptico, con riferimenti anche a Nietzsche, e voliamo in alto, allora. Sì. Voliamo in alto, senza la presunzione, sì, di voler, sì, fare, chiaro, il filosofo, chiaramente. Sempre, anche perché ho scritto Non mi importa contro i presuntuosi, poi mi metto a fare il presuntuoso, esatto, io. No, ecco, chiaramente ho un riferimento a Nietzsche, non è che mi metto a livello dei filosofi. E, sì, tu hai detto giustamente il pezzo, il brano più rock dell'album. Qui c'è la melodia nel disco tuo, questo è chiaro. Sì, sì. Però questo è forse il pezzo in cui la melodia è tirata per i capelli, anche se poi si trasforma, c'è quel riff, quel ritornello che è un po' melodico, un po' pop, però è più tirata per i capelli rispetto alle altre, perché non mi importa, è tirata sì per i capelli, però è più melodico, tra virgolette. Sì, sicuramente, sì, questa è un'osservazione giusta, non ci avevo mai pensato, però effettivamente pensandoci adesso è una canzone abbastanza, la melodia, la linea melodica è abbastanza fissa, è quasi sempre sulla stessa nota. molte parole messe vicine, quasi sempre sulla stessa nota, quindi effettivamente un po' tirata, si basa quasi tutto sul riff, sul giro di chitarra che poi dell'inizio che si poi va nella strofa, mentre Non mi importa è un po' più sviluppata la melodia. Questa qui è una canzone che andava bene, secondo me il riff aveva una grande, una tale potenza secondo me, già da solo, che metterci una melodia troppo complicata avrei finito per perdere un po' la potenza del riff. Come mettere, difatti la scelta anche dell'arrangiamento è stata anche basata su quello, cioè metterci anche magari altri strumenti sopra sarebbe stato un perdere l'energia del pezzo, e la melodia è stata studiata semplice anche per questo, per renderla più immediata possibile, per fare arrivare il riff, per fare arrivare le chitarre, una canzone in cui le chitarre si scatenano, esatto, e farle arrivare al meglio. Nei futuri concerti del 2011 potrebbe essere l'apertura con che se la gioca con Non mi importa, forse. Sì, potrebbe, solitamente i concerti che ho fatto, sì. Di cui uno con i Nomadi, mi pare. Ah, apertura anche di Nomi, l'ho, sì, messa, esatto, alla immediata, cioè come nell'ordine qui nel disco, quindi immediatamente prima della tela del ragno. Solitamente la tela del ragno è la chiusura. Certo. Perché deve essere così. Perché è così. Esatto. L'unica certezza che ho quando faccio la scaletta è la tela del ragno è la fine, basta. Poi il resto si può cambiare. E di Sommetti Nero solitamente viene prima. Cioè una scarica adrenalinica prima della chiusura dolce della tela del ragno. Dolce sognante. E poi tutti, buonanotte a tutti. Esatto. Non è ancora buonanotte per noi, no. Manca ancora un quarto d'ora. Ora suoniamo qualcosa adesso. Ti vado a fare la canzone, la prima canzone che ho scritto di tutte quelle dell'album, che l'ho scritta addirittura quando avevo 16 anni. E la faccio in versione acustica nell'album, è veramente molto rock, si intitola La festa delle nullità. Rock Wave, l'onda del rock. Luce, quanta gente, sono arrivati tutti. Ecco il mio benvenuto per la festa delle nullità. Mancherà. Saluti, abbracci e baci, simbolo di troppa vanità. Prova anche tu insieme a me questo viaggio fra le nuvole, vieni anche tu insieme a me, nel nulla più piacevole, prova anche tu insieme a me, questo viaggio fra le nuvole, vieni anche tu insieme a me, nel nulla più piacevole. Questo oceano d'apparenza, distruggiamo tutti i muri, arriviamo all'essenza. Sono sommerso dalla sabbia, fuggo dalla suefazione. cercando ancora un'emozione. Prova anche tu insieme a me questo viaggio fra le nuvole. Vieni anche tu insieme a me nel nulla più piacevole. Prova anche tu insieme a me questo viaggio fra le nuvole. Vieni anche tu insieme a me nel nulla più piacevole. Nulla più piacevole. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Una contrapposizione tra dolcezza e grinta in questo pezzo. C'è un po' di tutto. Cioè, il pezzo di tanti anni fa, insomma, i primi pezzi che tu hai scritto. Abbastanza che hai scritto. E poi chiaramente hai voluto incidere anche su questo disco. È stata la prima canzone scelta anche dal demo, è stata la prima canzone scelta e registrata in questo disco. È una canzone molto molto aggressiva, anche se adesso la versione che ho fatto io è abbastanza tranquilla, ovviamente facendola acustica ha un altro sapore, però la canzone nel disco e nel demo era molto molto più aggressiva e arrabbiata. Ma si sente che l'aggressività è rimasta anche se l'hai fatta acustica, il pathos, la forza. Ma è giusto che sia così, visto l'idea parte da quello che... Sì, sicuramente ho cercato di dare un po' più di dinamica, ma sicuramente una canzone che parla della superficialità, è contro la superficialità, contro l'apparenza che a volte copre quella che è la sostanza sia delle cose che delle persone soprattutto. Quindi molto spesso abbiamo delle maschere o delle categorie che noi abbiamo in testa e mettiamo a determinate persone. Quindi quella persona è può essere di una tale religione, di una tale posizione politica, tifosa di una determinata squadra, e non andiamo oltre a queste cose. In realtà andare oltre vuol dire tornare all'essenza e tornare quindi al fatto che quella è una persona, cioè prima di tutto è una persona, poi che sia i gusti o le opinioni politiche, la provenienza, il paese, il dialetto, la lingua non c'entrano niente, cioè non c'entrano niente, sono una parte, sono diciamo i pianeti che compongono l'universo, però la persona è quell'universo, quindi bisogna basarsi sull'essenza, sulla persona. Chiarissimo. Diretta rockway.altervista.org, sono le 23:51, abbiamo ancora circa 9 minuti, di cui due pezzi da fare live. Okay. Ne facciamo subito un altro. Cosa hai scelto adesso? C'è un messaggio che mi porta Michele. Bella dissolvenza in nero, rock allo stato puro, bravo Paolo, da Mina e Antonio. Lo salutiamo. Grazie. Vi ringrazio. Dissolvenza in nero, il rock allo stato puro. Sì, rock sì. E melodia, perché la melodia esiste, si dipana, si allarga, si restringe, c'è ma sempre. La melodia è la punto melodia focale. E anche nella prossima canzone che andremo a fare c'è melodia sicuramente. E, faccio Salto nel vuoto. No? Benissimo. La faccio dal vivo e la spieghiamo dopo. Vuoi che la spieghiamo dopo. Rock Wave, l'onda del rock. Non ho bisogno di parole per dirti che ti amerò. Non ho bisogno di sognare se tu sei accanto a me. Vorrei solo che i tuoi occhi incontrassero i miei. Sei disposta a rischiare per vincere. È un salto nel vuoto per te. ti fidi di me. E come un fiore segue il sole, io ti seguirò. Come un fiume cerca il mare, io ti cercherò. Vorrei solo che il tuo sguardo incrociasse il mio. Sei disposta a credermi per vivere? È un salto nel vuoto per te. Abbiamo finito questa cavalcata, Paolo. Benissimo. È stata molto positiva da parte nostra, spero anche da parte tua. Mi dai 30 secondi di spiegazione di questo pezzo? È un pezzo che parla di fiducia, quindi la fiducia è, in una persona è come fare, sostanzialmente come fare un salto nel vuoto, quindi ci si affida e si spera di trovare una mano che ci possa afferrare mentre noi ci buttiamo, quindi in questo vuoto, in questo burrone, diciamo, questo precipizio. Sì. Quindi abbiamo presentato Nel mio mondo, il disco di Paolo Cecchi, sì, che si può trovare su YouTube, su iTunes, cioè iTunes, sì. E su YouTube c'è il video, l'etichetta Pitta Records, prodotto da Matteo Franzana, Stefano Florio. Ringrazio i produttori, tutti i musicisti di cui non ricordo il nome, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e quelli che hanno mandato SMS, certamente ringraziamo Ronny qui presente, il nostro fotografo fotofare eccetera, grazie a Michele Tosoni in regia e grazie al nostro curatore che è Alberto Prisco. Sabato avremo un appuntamento straordinario, faremo Rock Way anche a sabato con Lelle Battista. E inizio. Concludiamo con Paolo Cecchin, concludiamo? Ritorniamo all'inizio, faccio in versione acustica il mio primo singolo, Non mi importa. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte, grazie. Rock Wave, l'onda del rock. Anche senza te non ci credi che